è un termine chiave, indica l'allegria, però non un'allegria in un sentito così banale, concreto e sensibile. Gioia è un'allegria che dà plenitudine esistenziale, è un'allegria di autorealizzazione, no? Hasta il punto che si è potuto pensare che il termine gioia supponderia una laicizzazione della allegria che il cristiano tiene, per esempio, quando sta in grazia di Dio, solo che le dà un carattere profano e erotico. E il gioia è la, non l'allegria superficiale, no, sino il sentito, l'entusiasmo quasi che si tiene in presenza o quando si conosce o si frequenta la mujer amata, no? Para evitar nada más y nada menos, si no se escandalizan, que el orgasmo. ¿Eh? Pero no el orgasmo realizado, tanto la idea mental de poder llegar a concluir el acto de amor con la mujer inaccesible. Yo escrito así: Gaudium et Gauch, que sin embargo no significa la gioia nel sentido cosmico e totale, sino la allegria, no? Tiene un alcance semantico molto más reducido, aunque claro che si è trattato di algo agradabile, però una cosa è la suma allegria, no? E otra è un'allegria pequeñita, agradabile, però no cosmica, no universale, eh?